dalle parole ai fatti. Chi la fa l'aspetti? Io? Sei tu che non rispetti. Ora sei tra me e Neko, come tra Scilla e Cariddi, o come egiziana Dazio, o come infedeli lanciati nel pozzo di San Patrizio. Questi sono quelli che spaccano, com'è da Fazio, contro il falso, contro lo scarso. Possediamo un'armata navale sul nostro oceano, per far subire il supplizio di Tantalo a chi non sa reggere il microfono. Portateci in cima sui vostri massi come Sisifo, sbattendo la testa contro la tempesta al marmo di Sarnico. Tu cerchi ispirazione oltre oceano, io invece la trovo dentro l'oceano. Zorba e Neko, le skills sono mio, sue. Stanchi di rime scarse in 3x2. Queste strofe non le trova il gruppo rinascente. Esclusivista per l'universo, oceano delle tempeste. Sai chi c'è qui? ODTAMC. Zorba e Neko, sul Tufan B. Tutti falsi dall'altra parte del ring. Fan americano, ma si nato in Italy. E non a caso usiamo la parola MC. Possibile che non t'accorga, vuoi avere la forta, ma non cresce la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, hey, rapper, non voglio ferire il tuo orgoglio, ma ti sguaccire presto, sei lo spessore di un foglia. Hai la metrica caliente, lo stilo che scotta, ma non serve la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, hey, falso, schioda, chi vuoi che ti oda? Sei un groviglio di parole senza capo né coda. Pronto? Ehi, c'è qualcuno che intende? Lo scarso piede libero e l'odore già si sente. Goodbye, arrivo tipo uragano. Shake, i tuoi concetti li danno coi bollini alla Kuwait. Hi, ti spacci per b-boy ma non lo sei. Sei un figo coglion boy, la cultura come stai? Un po' acciaccato boy. È bello che ti credi un MC da panico, con le puttane a testa alzando il gomito. In the backstage t'ho scambiato per un comico. Figo, spargi tex in giro, ma di fronte ai fatti scappi come dalla luce un vampiro. Eppure t'ho già visto in giro, ma cazzo, non mi viene in mente i tuoi simili sugli scaffali del Toy Center. Stasera cena con Ken e Barbie, attento che cadi come la Grandi. Lascia perdere il pop, torna i fiori colorati con Candy Candy. Mi godo il tuo sketch, buona Van e Brandy. 1, 2, 3, mi senti? Falso comprendi? Com'è, scusa? Falso comprendi? Possibile che non t'accorga, vuoi avere la fonda, ma non cresce la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, rapper, non voglio ferire il tuo orgoglio, ma ti sguaccirei presto se lo spessore di un foglia. Hai la metrica caliente, lo stilo che scotta, ma non serve la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, falso, schioda, chi vuoi che ti oda? Sei un groviglio di parole senza capo né coda. Sucker, sei più falso delle tette della Weber. Sei sulla mia lista, ma io non ti salvo con le Schlinder. Sei l'assassino dell'hip hop inseguito da Tex Willer. Per tutto l'oceano in tempesta, la scritta ricercato, domino la tua brutta faccia. Tutti gli avvisi d'Italia, Neko, è arrivato un telegramma, dice che l'hanno trovato. Peccato, il falso è morto, defunto, morto annegato nell'oceano. Glu glu glu, guardo il falso che va giù. You believe you can fly, ma adesso non ci credi più. Non t'ha salvato la tua pseudo crew, schizzata via il primo lavaggio tipo water tattoo. Vuoi lo scontro? Lo sfondo come quello di Platoon. Ti fa male la mia lingua affilata come uno shogun. Ti metti mostra, poi non ti si vede più. Ti toccherà di immergerti nei fischi come un sub. E non si passa da bianco e nero a colore per uno di quei tanti che sorgono e tramontano in 2 ore. Possibile che non t'accorga, vuoi avere la folta, ma non cresce la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, rapper, non voglio ferire il tuo orgoglio, ma ti sguaccirei presto se lo spessore di un foglia. Hai la metrica caliente, lo stilo che scotta, ma non serve la stoffa se non ci metti la gobba. Ehi, falso, schioda, chi vuoi che ti oda? Sei un groviglio di parole senza capo né coda. Mi piace, mi piace.